chain beat drubber. Drubber. Se vuoi il tema contorto, non hai chiesto troppo. Intoppo dopo intoppo, le cazzate sono un conforto. Quando parlo di strada è perché non ci voglio finire. Quando lo fai tu è perché non hai niente da dire. Io non parlo di scopate, ma di sentimenti. Tu racconti flash delle tue pippe ai 420. E se allora questo è il caso, ripresa per il naso. Parlerò di grassetti che una vasca completi sadomaso. Se è vero che stai gangsta, testa da battaglia. Io ho sconfitto i ribelli sul fronte in Cornovaglia. E se è vero che dai giri alla scarpa e il suo garbino. Mi hai lasciato basito e sboccato con un ciupito. Dici che hai dipinto l'Italia cost to cost, ma stai sempre a casa a guardare Lost con un toast. Dici che hai visto sberle, botte e ignoranza, ma mi sa che tuo padre non te ne ha date abbastanza. Non capisco l'importanza di una fandonia, se c'è chi rispetta la verità con parsimonia. E se sto punto devo entrarci pure io, vi racconto ciò che volete, mamma mio. E non capisco l'importanza di una fandonia, se c'è chi rispetta la verità con parsimonia. E se sto punto devo entrarci pure io, vi racconto ciò che volete, mamma mio. Il discorso poco chiaro, riconosci il cazzaro. Se chi fa il moralista beve più rum di un corsaro. Di chi parla di amore, fedeltà troppo serio. Ma poi si sa che l'adulterio aumenta il desiderio. Mi nascondo dietro bugie o un tranello. Voglio morire giovane e lasciare un corpo grasso bello. Ogni discorso lo si affronta in modo statico. Se l'alcol fosse un problema sarei un matematico. E questa va ai nerd che fanno gli stolti. Sono il migliore in quel che faccio, ma quel che faccio non l'ascolti. E se dico boiate non mi tiro indietro. Sei in una botte di ferro ma io sono magneto. Sono discreto, ma anche uno che non se le tiene. Sono il punto di un discorso che non ti conviene. E tu che ti nascondi dietro testi che non ho capito. Io sono un fallito, perché maledico chi ti ha partorito. Non capisco l'importanza di una fandonia, se c'è chi rispetta la verità con parsimonia. E se sto punto devo entrarci pure io, vi racconto ciò che volete, mamma mio. E non capisco l'importanza di una fandonia, se c'è chi rispetta la verità con parsimonia. E se sto punto devo entrarci pure io, vi racconto ciò che volete, mamma mio. Compa, me ne sono fatte, le passano ad un sorriso. Con la destra o la sinistra, compa, hai già deciso. No, cosa intendi? No, niente, niente, continuo, continuo. Rui una minuna e pumina. Tipico discorso di chi se la mina. Poi cancia, ma si cavuccia, calavo il blog job. Sì, questa cosa l'hai letta sul blog di Snoop Dogg. No, mi è successo ieri quando ero tutto un giro. Mi sono fatto lei la sua amica, ma non dirlo in giro. Non voglio vantarmi delle scopate con le mie lei. Cazzo, l'hai detto a me ad altri 126. Comunque, perché non lo devo dire, mica la cattiveria. Che sto con una pornostar di Siberia, una cosa seria. Se lo viene a sapere sta bagascia mi lascia. Poi vado da lei e le avrò la testa da come nasce. Il discorso fatto da uno col fiato di uno stretto raro, vestito con la stoffa di un divano. Non ti suona strano. Non capisco l'importanza di una famiglia.